Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Quanti, considerata sia l'offerta dei veicoli elettrici sia la disponibilità di infrastruttura per la ricarica, potrebbero passare a un'auto elettrica oggi, subito, senza subire ripercussioni o disagi né di tipo logistico né, diciamo così, di tipo economico? Insomma, quante potrebbero essere oggi le auto elettriche per strada? Ebbene, al Politecnico di Milano hanno appena concluso un'indagine per cercare di rispondere a questa domanda. Ne parliamo con Sergio Savaresi, professore del Politecnico di Milano del Dipartimento Elettronica, Informazione e Bioingegneria, che insieme alla professoressa Silvia Strada e a vari studenti e dottorandi appunto del Politecnico hanno messo a punto questo rapporto. Buonasera Savaresi, benvenuto. Buonasera, grazie. Allora, senta, come prima cosa le chiedo schematicamente di farci un po' l'identikit dell'utente, dell'accoppiata utente-veicolo e forse dovremmo aggiungere anche abitazione, che determinano quel mix ideale per passare subito all'auto elettrica. Sì, certo. Allora, abbiamo cercato, quindi ripetendo quello che ha sottolineato lei, quindi abbiamo cercato di dare la risposta all'identikit di chi può passare subito. Allora, questo identikit essenzialmente è fatto da tre caratteristiche. Allora, uno, deve essere tale per cui non fa mai più di, noi abbiamo ipotizzato 300 km al giorno, che è la distanza tipica di autonomia di un'auto elettrica, e quindi durante il giorno non ha bisogno di infrastruttura di ricarica. Due, deve avere la possibilità di fare la ricarica notturna, quindi diciamo chiamiamola ricarica privata, condominiale o all'interno della propria abitazione. E tre, deve avere una percorrenza annua media tale per cui va a break even, quindi va in pareggio economico in un tempo sufficientemente breve. Ecco, con queste tre caratteristiche l'utente ha l'identikit perfetto per passare subito, senza nessuna limitazione, in nessuno di questi tre assi, all'elettrico. Quindi possibilità di ricarica, no attese per fare il pieno durante, diciamo, di energia durante la giornata, ma abbastanza chilometri all'anno da poter beneficiare del fatto che il veicolo elettrico è un veicolo che ha un costo di gestione più basso di quello di un veicolo tradizionale. Allora, il primo parametro, diciamo, che avete preso in considerazione è quello della percorrenza quotidiana. Certo, allora la prima cosa che volevo sottolineare è che abbiamo analizzato un enorme numero di viaggi, su più di 100 milioni di viaggi che si riferiscono a un'area del, diciamo, alcune aree dell'Italia. Abbiamo analizzato più o meno dal 3 al 5% dei veicoli, quindi numeri veramente importanti con un valore statistico notevole, nell'arco di 12 mesi, quindi diciamo copriamo interamente l'utilizzo del veicolo durante l'anno. I numeri sono, dal mio punto di vista, sorprendenti, nel senso che addirittura il 50% delle auto degli italiani non fa mai, e sottolineo il mai, più di 300 chilometri nell'arco di un giorno durante tutto l'anno. E lo sottolineo perché molti hanno un percepito diverso. Certo. Quindi noi probabilmente ciascuno pensa ogni tanto di fare dei viaggi lunghi, ma non lo facciamo. Metà delle auto non li fanno mai. Mai, mai. Non qualche volta, mai. Tanto è vero che la seconda categoria qual è? La seconda categoria abbiamo provato a dire cosa succede se togliamo qualche giorno, quindi concediamo qualche giorno l'anno, e abbiamo fatto da 1 a 5 il superamento dei 300 km giornalieri, e qui il numero diventa veramente alto, quindi arriviamo a sfiorare il 90%, quindi 50% mai, fino al 90% che hanno al massimo 5 giorni con spostamenti più lunghi di 300 chilometri. Benissimo, veniamo al secondo aspetto, a questo punto, che invece è quello della possibilità di ricaricare senza affidarsi all'infrastruttura diffusa, pubblica. Assolutamente, quindi ovviamente questo è un altro punto molto importante. Noi tutti aspettiamo con ansia di vedere un'infrastruttura pubblica completamente sviluppata, che sarà molto importante, ma comunque è complessa e richiede tempi lunghi. Allora, ci siamo chiesti, abbiamo cercato di fare di trovare qual è il numero, diciamo ovviamente su base statistica, degli utenti, dei proprietari di auto che hanno realisticamente a disposizione un punto di ricarica privato, quindi un box privato, un box all'interno della propria villetta o del proprio condominio. Bene, abbiamo analizzato le densità di popolazione, adesso non entro nei dettagli. Sì. Numero finale, circa il 55% degli italiani ha questa possibilità. In media ha la possibilità di fare ricarica notturna. Perfetto, allora vediamo poi il terzo parametro, perché come dire il risultato finale sarà un po' l'intersezione, no, di tutti questi sottogruppi che stiamo individuando. Il terzo parametro è di carattere, che avete valutato, è di carattere economico. Certo, ovviamente questo è un po' un tasto, chiamiamolo dolente, perché uno potrebbe dire io posso ricaricare funzionalmente, posso passare all'elettrico, ma se è un veicolo che non mi conviene ovviamente c'è una forte resistenza al passaggio. Allora qui abbiamo fatto un modello molto articolato in cui le due voci importanti sono il costo energetico, quindi benzina versus elettricità, e ovviamente il costo della batteria, che è un surplus di costo che subisce l'elettrico, aggiungendo anche tutti gli altri aspetti economici, quali la manutenzione, il bollo, l'assicurazione, la svalutazione del veicolo, e ovviamente abbiamo tenuto conto anche degli incentivi esattamente come sono oggi. Quindi fatta questa analisi abbiamo cercato di valutare quanti veicoli possono raggiungere il pareggio economico al più in 8 anni. 8 anni perché 8 anni è il periodo medio in cui gli italiani tengono l'automobile prima di cambiarla, quindi ci sembrava un numero corretto, quindi cercare un pareggio economico all'interno di questi 8 anni. A questo punto, incrociando queste tre caratteristiche, quindi chi non fa più di tot chilometri al giorno, chi può ricaricare casa e chi va in pareggio, sono venuti fuori i numeri finali, che sono numeri a nostro giudizio sì, molto significativi in termini assoluti. In particolare parliamo del circa il 13% delle auto che circolano in Italia oggi, che soddisfano tutte queste caratteristiche, quindi diciamo, sì, in teoria l'utente non avrebbe nessun motivo per non passare all'elettrico, non ha nessun svantaggio né funzionale né economico, e questo numero diventa addirittura il 34% se includiamo anche gli utenti che fanno al più 5 viaggi fuori dal range di 300 km all'anno. Va bene, grazie professor Savaresi. Bene, grazie a voi, buona serata. E cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani, buona serata.